Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che ritrova la voce di una fumettista assai nota nel mondo dell'autoproduzione. Parliamo di Bambi Kramer, che noi cerchiamo per questo lavoro molto interessante, ahimè non ancora tradotto in italiano, We Live Here, Detroit Eviction Defense and the Battle of Housing Justice. Bambi Kramer in realtà ha disegnato, mentre Jeffrey Wilson da Baltimora ha scritto i testi, di questa lotta per la casa, un lavoro collettivo che appunto ci parla di collaborazione tra diversi, autoproduzione e problematiche complesse sia di carattere etico che politico. Quindi lasciamo la voce della stessa Bambi Kramer introdurre l'argomento. Questo libro nasce per una catena di coincidenze ed è una collaborazione tra me e un geografo urbano originario di Baltimora che ha condotto per 2 anni una ricerca sul campo in relazione all'attività del Detroit Eviction Defense, cioè auto-organizzazione collettiva, quindi totalmente a partire dal basso, di difesa delle abitazioni. La ricerca inizia tra il 2008 e il 2010, e lui l'ha portata avanti fino a circa il 2012, ma comunque anche attualmente Detroit è una città in dismissione e questo mi sento già un po' in difficoltà a dirlo, ma queste sono anche di più, diciamo, sostanzialmente Detroit è una città che a partire dalla crisi del 2008 ha subito un processo speculativo potentissimo, ed è un processo speculativo che si è abbattuto prevalentemente sulle minoranze. Il libro cerca di fare una raccolta di storie tra virgolette esemplari di quelle che potrebbero essere le diverse casistiche, illustrando le dinamiche e i meccanismi attraverso i quali si effettivamente realizza la speculazione. Quindi possiamo avere la famiglia di origine ispanica, come il caso di Jerome, che invece è una persona disabile, nel senso che lui ha subito, purtroppo gli è stato sparato nella schiena durante una rissa, quindi costretto su una sedia a rotelle dall'adolescenza e quindi soggetto ritenuto fragile in un certo senso, ma anche paradossalmente in maniera molto cinica portatore di una nuova frontiera speculazione, nel senso che convincere una persona che per necessità fisiche è costretta a vivere in una comunità perché non è nelle condizioni di potersi rendere autonomo, che invece lui può essere autonomo e che questa sua autonomia passa attraverso le diventare proprietario di casa. Abbiamo il caso di Marie, che invece è quella che più ci porta dentro anche un po' di background storico di Detroit, famiglia costretta a spostarsi dal vecchio quartiere di Black Bottom, quindi quartiere a prevalenza afroamericana, quartiere in cui si intesse un tessuto sociale, economico, relazionale e anche di prospettiva di vita molto forte e molto intenso, improvvisamente costretti a spostarsi perché il quartiere deve subire una riqualificazione urbanistica, ma in realtà, ahimè, dal punto di vista progettualmente sociale, ecco, del quartiere, viene costretta a sperare anche lei di poter acquisire una nuova casa in una nuova zona e quindi a poter aspirare ad un nuovo modello di vita. Insomma, sono diversi meccanismi, diverse persone, diverse storie che illustrano come succede che a queste persone viene prima instillato il desiderio, l'idea che sia necessario, importante e auspicabile possedere un'abitazione, per poi togliergliela. Sono storie di persone che hanno vissuto questi processi di esproprio, questi processi di sfratto e di delocalizzazione. Sono storie di persone che si auto-organizzano, alle volte le stesse persone che sono, la cui casa è stata, tra virgolette, salvata, ma poi entrano a far parte del movimento, quindi è collettivo nel senso che il Detroit Eviction Defense è un movimento che tuttora esiste e che tenta di difendere sia i proprietari sia gli inquilini dalle varie procedure speculative, e la ricerca poi appunto si incentrava su questo, sì, è collettivo perché, nonostante io vengo dal mondo dell'autoproduzione, faccio parte del gruppetto che organizza un festival di autoproduzione a Roma che si chiama Crack, e quindi sono in uno strano interregno quando si tratta poi di andare a lavorare con editori tra virgolette ufficiali, in questo caso Estreme Story Press, cioè il ramo tra virgolette diciamo, alternativo impegnato della Penguin. Ma in realtà, nonostante sia una pubblicazione ufficiale, mainstream in qualche modo, buona parte di tutto il processo di pubblicazione è stato sostenuto ed è reso possibile grazie al crowdfunding. Un crowdfunding che si è appoggiato sulla necessità, la voglia, la forza di una collettività che desiderava fortemente che queste storie venissero raccontate, desiderava fortemente che fosse possibile portare alla luce questo libro, e quindi si è proprio attivamente e concretamente, economicamente impegnata affinché il progetto potesse vedere la luce. L'editore si è reso disponibile con un numero di copie messe a disposizione per poter dare le ricompense e via così. Quindi è stato un processo molto lungo, svoltosi a cavallo del Covid, motivo per cui mi sarebbe piaciuto poter alla fine andare anche a Detroit, ma non ci sono riuscita, quindi anche lì il discorso di raccolta della documentazione è stato tutto un altro processo a parte. E quindi in questo senso scopriamo da quest'altro lato dell'oceano come la lotta per la casa non solo sia chiaramente un tema diffuso a 360 gradi che è quasi come un filo rosso, accomuna diverse realtà, diversi contesti anche molto distanti tra loro, ma in realtà ci svela anche quali sono alle volte le contraddizioni, il modo in cui diversi contesti connotano poi in maniera differente le storie e anche le lotte in questo senso. Il libro si intitola We Live Here, ovvero Detroit Eviction Defense and the Battle for Housing Justice, ma di fatto giustizia abitativa, forse si può tradurre così, in realtà in questo libro assume tante diverse connotazioni che poi in ogni storia si declinano in maniera particolare. Significa anche questo, cioè nel momento in cui una moltitudine viene necessariamente ricondotta a un unico, o in questo caso ad una coppia, è chiaro che si pongono una marea di problemi metodologici, etici e politici in un certo senso. È chiaro che il libro si basa su delle interviste raccolte in forma diretta. Jeffrey Wilson ha partecipato ad una serie di attività e proprio di azioni del D&D. Sì, c'è una mosca che ci molesta, e però poi è chiaro che c'è un problema proprio di traduzione, cioè dal punto di vista pratico il libro ha avuto un processo di gestazione molto lungo, perché tutto quello che veniva da parte mia a livello disegnativo, di struttura visiva del libro e via dicendo, da parte di Jeffrey ovviamente per quello che riguardava le parole, doveva passare al vaglio delle persone che venivano rappresentate. Quindi c'è stato un problema di liberatorie, c'è stato un problema di dover rimandare tutto il materiale indietro, perché chiaramente ogni persona che veniva citata ed era resa protagonista di un capitolo doveva essere consapevole di che cosa si stava andando a raccontare, di come veniva raccontato e rappresentato. C'è stato un problema legale, il libro parla a chiare lettere di non solo di processi, ma anche di entità, banche e anche alle volte istituti pubblici, quindi comunque che cosa si può dire, come si può dire e se è corretto quanto censurare o meno. Faccio un esempio concreto: quando dico che c'è un problema di traduzione di questo libro, a parte il fatto che non è edito in Italia attualmente, c'è anche un problema di contesti, come accennavo prima. La battaglia per la casa lì sostanzialmente in questo libro si traduce in battaglia per la proprietà. Noi non stiamo parlando di difendere il diritto all'abitare, anche se chiaramente in maniera implicita stiamo parlando anche di quello, ma stiamo parlando innanzitutto di possibilità di detenere le proprie abitazioni, che si è stati spinti ad acquistare, che desiderare in quanto proprietari o futuri proprietari, e che poi a un certo punto ci si vede sottrarre con meccanismi più o meno beceri. Però quando le storie sono vittoriose, in qualche maniera, nella maggior parte dei casi le case vengono riacquistate. Per me è stato un problema enorme, nel senso io non riuscivo a capire come lui potesse dirmi questa è la storia in cui abbiamo vinto, quando poi si trattava di ripagare 20-25 mila dollari un'abitazione. Ma non solo, lì le persone che vincevano, rivincevano indietro la loro casa, venivano anche spesso e volentieri sottoposte a degli accordi, non disclosure agreement, cioè noi accettiamo di scendere a patti con te, ma tu in cambio devi mantenere la riservatezza su una serie di punti. Quindi se io avessi detto troppo, magari anche banalmente proprio dei cartelli che venivano mostrati durante le rappresentazioni delle dimostrazioni o delle azioni che il movimento mette in atto, e poi nei guai ci finisce la persona che sta abitando o che ha riconquistato la propria casa. Quindi collettività nel caso di questo libro significa una marea di cose, ed è stato complicato prima di tutto concepirle e poi operativamente metterle in pratica in un contesto che appunto era lontano anche fisicamente da me, era lontano in termini di tempo, di spazio, di consapevolezza. Insomma, ecco, è complesso nel momento in cui si parla di farsi, diciamo, portavoce come fumettista di testimoni che hanno vissuto, che hanno visto o che hanno semplicemente portato la storia perché venisse poi rappresentata dentro al libro. È proprio un problema di metodo, ecco, e secondo me questo è un dibattito che da noi è ancora tanto poco affrontato, perché il fumetto è, che cioè, generalizzando e quindi sempre con tutti ovviamente i dovuti distinguo, molto spesso è narrativa o testimonianza, e l'idea della testimonianza da noi è ancora tanto, almeno nella mia esperienza, l'idea di un fumetto strumentale, cioè mi serve un fumetto per dire qualcosa. Ma quando lo inserisci in un flusso narrativo, il che magari è anche quello che uno vorrebbe raggiungere, perché crea il coinvolgimento, crea l'immedesimazione, crea la capacità di rendersi compartecipi anche di una storia che si sta svolgendo a chilometri e chilometri di distanza, e lì allora sono tante le porte da cui possono scappare i problemi, sono tanti il rischio di sentirsi in qualche maniera un po' estrattivisti in una qualche forma. Cioè la maggior parte delle storie rappresentate, stiamo parlando appunto di famiglie di origine ispanica, persone afro-discendenti o più comunque esperienze che non mi appartenevano, non mi appartengono tuttora esistenzialmente parlando. E allora perché sono io che poi porto il libro in giro, sono io che poi in qualche maniera costruisco una mia professionalità intorno ad una storia che non ho sofferto e vissuto sulla mia pelle? E quindi è interessante, ed è secondo me un modo, da parte mia un modo per restituire la fortuna che sta poter svolgere un lavoro che amo e un lavoro che non è affatto scontato, e metterlo a servizio e reiterare qualcosa indietro. Però allo stesso tempo c'è anche sempre il rischio di mettersi dall'altra parte e di essere improvvisamente quello che anche sfrutta in qualche maniera una tematica, un contenuto che non ti appartiene. Ero curioso di sapere che tipo di reazioni ci sono state al libro. Da parte delle persone, dei protagonisti e delle protagoniste delle storie, c'è stato grande entusiasmo. Comunque loro ci tenevano infinitamente a che venissero alla luce e potessero essere condivise le loro esperienze. Il fatto che comunque appunto una persona che subisce prima questa situazione e poi decide di entrare nel D&D è anche perché comunque pensa che la propria esperienza possa essere di aiuto e di supporto agli altri e alle altre, e di conseguenza, ecco, portare questo su larga scala pubblicando un libro comunque come una casa editrice abbastanza importante negli Stati Uniti, ma in ogni caso, ecco, semplicemente anche pubblicandole, è stato sicuramente per loro molto importante, forte da un certo punto di vista. Abbiamo dovuto tagliare per ragioni di spazio una delle storie, non solo lei ma anche Jerome per esempio ha attualmente non c'è più, quindi le persone che poi dovevano convalidare in un certo senso il capitolo è stato anche, ecco, riaprire delle ferite in qualche maniera, insomma è stato intenso, ma sicuramente le reazioni sono state positive. Per quanto riguarda il feedback di pubblico, in una qualche maniera è una domanda curiosa, essendo che appunto il libro non è uscito in Italia. Negli Stati Uniti hanno questa strana usanza, loro portano il libro in lettura ad una serie di persone prima dell'uscita che ritengano possano essere interessate, soprattutto per questo genere di pubblicazione, e poi ne prendono quello che in Italia sarebbe la fascetta, però lo fanno su larga scala, quindi ci può essere il fumettista, ci può essere lo studioso appunto di geografia urbana piuttosto che di altri processi affini a queste tematiche, e ognuno diceva la sua. Quindi in realtà io ho avuto il primo feedback che ho avuto, l'ho avuto su questo lavoro della casa editrice che andava a dare il libro in lettura per cercare anche di avere in fondo anche una forma di promozione. E quello che ho capito è che mentre io realizzavo il libro non avevo veramente capito che cosa stavo facendo. Cioè io pensavo, anche per un problema di terminologia, di star realizzando o cercando di realizzare un graphic novel in qualche modo. Quando ho avuto il libro tra le mani mi sono resa conto che non era così, perché di nuovo non avevo la categoria. Cioè per loro questa non era un graphic novel, non era neanche graphic journalism. Loro l'hanno chiamato in uno dei vari blurb visual scholarship. Cioè è di fatto una ricerca, è un processo quasi accademico da un certo punto di vista a fumetti. L'idea che il fumetto non sia necessariamente né una forma chiaramente di arte minore, come spesso si parla in questi incontri, ma tantomeno neanche una forma di scrittura minore, cioè che si possa effettivamente veicolare un messaggio accademico, politico, come tu lo metteresti normalmente in un saggio, e questo per loro era proprio una categoria a sé stante, quindi per dire una sciocchezza, la scelta della carta, la scelta poi un po' dell'essenzialità della pubblicazione. Io avevo pensato, come c'è una parte testuale che contestualizza sia in prefazione che in postfazione la parte a fumetti, io avevo immaginato di poterla distinguere ad esempio cambiando il colore di stampa. Un mese dall'uscita mi scrivono e mi dicono, tra le 10.000 questioni che riguardavano l'uscita del libro, a un certo punto mi fanno: ah vabbè, ma poi ne abbiamo parlato, perché comunque, cioè, questo fatto che lo dobbiamo stampare in nero, io l'avevo immaginato in viola. E ho detto: no, veramente non ne abbiamo parlato. Cioè, per me era un cambiamento, no, di un'offesa, proprio una ferita alla mia visione di come doveva essere il libro, terribile, la carta mi sembrava una carta sbagliata, come se loro non avessero nessuna attenzione per l'aspetto estetico, che però era di fatto il mio ruolo. E invece in realtà quando ce l'ho avuto per le mani ho capito che questo è quello che doveva essere, e ho capito che non ero proprio tarata, come del resto è anche comprensibile nella difficoltà magari di portarlo ad un editore qui in Italia a capire che tipo di oggetto sia. Secondo me è anche interessante ragionarle come un ponte tra Stati Uniti e Italia, cioè noi abbiamo delle situazioni paragonabili e non paragonabili allo stesso tempo, e una delle cose che secondo me accomuna contesti così diversi, per esempio, è l'idea che tutto quello che riguarda le battaglie per l'abitazione è, come diceva Engels, quando si tratta di diritto all'abitare, no? di abitazione, l'unica soluzione che il capitalismo, la borghesia può portare è semplicemente riprodurre il problema. E questo è quello che è successo qui in una certa chiave, ma è quello che per esempio è successo a Ostia. Io che sono di Roma, questa cosa mi si riconduce direttamente alla creazione dei quartieri dell'idroscalo di Nuova Ostia, cioè improvvisamente c'è un ponte che attraversa l'oceano, e Engels nel 1800, per dire, no? L'idea che appunto sia interessantissimo aprire un dibattito anche da questo punto di vista. Ecco che abbiamo un'intervista con Anna Maria De Maio, che si occupa di letteratura giovanile, non solo, ex docente di antropologia alla Sapienza. Vero, buongiorno Anna Maria. Buongiorno. E sì, del gruppo Sapienza. Di servizio della letteratura giovanile. E la intervistiamo perché c'è stato un avvenimento molto importante il 23 e il 24 novembre in presenza a Palazzo Firenze presso la Società Dante Alighieri a Roma e il 22 a distanza con una tavola rotonda. Allora, qual era il tema, Anna Maria? Allora, il tema era Giuffà, questa figura della tradizione orale di origini arabo-siciliane, portata infatti dagli arabi nella loro diffusione nel Mar Mediterraneo, arrivata soprattutto in Sicilia, e infatti è lì che ha questo nome di Giuffà, ma diffusa appunto in tutte le regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo, dove, assumendo nomi diversi, però mantiene le sue caratteristiche, che sono quelle dell'ingenuo, sciocco, ma anche furbo e saggio per certi versi. Infatti il titolo del convegno, lo ricordiamo, era Giuffà e le sue storie, il Mediterraneo e oltre, il furbo, lo sciocco e il saggio, perché come dicevi ci sono degli adattamenti, diciamo delle trasformazioni in funzione dei luoghi dove per secoli questa figura ha viaggiato, anche perché personaggi delle fiabe popolari, dei racconti popolari sono sempre stati in questo ambito attenti a riprodurre dei personaggi che fossero un po' al limite della lucida follia, come dicevamo, e che avessero un insegnamento andasse dal divertente abbiamo un po' sottolineato gli aspetti linguistici, no? Anche nella saggezza, come il bambino che dice appunto il re è nudo e svela la realtà che solo un bambino, un ingenuo o uno sciocco può vedere. Puoi dirci appunto un pochino come è andato questo convegno? Il convegno è andato benissimo, devo dire, con la partecipazione di molti relatori, docenti di grande prestigio di università italiane e anche docenti che insegnano in università estere, e quindi hanno portato un contributo che ha sottolineato proprio le radici comuni di questo personaggio, sottolineando come popolazioni diverse per cultura siano molto simili. E questo, diciamo, è stato uno degli scopi fondamentali del convegno, dimostrare come attraverso la cultura ci si può sentire uniti, ritrovando le stesse radici. Il messaggio è umanamente e culturalmente, come dici, interessantissimo, perché nelle varie sponde del Mediterraneo troviamo appunto degli elementi comuni proprio attraverso la narrazione. Quindi addirittura abbiamo citato, no, nella tavola rotonda del 22, dove ero presente, appunto come dicevi insieme ad altri relatori, che hanno esplorato queste relazioni con altri famosi, altri autori. E quindi dal Nasreddin della Turchia, poi abbiamo parlato di Giuffà qui in Marocco dove mi trovo, e personalmente lo voglio ricordare, insomma ho fatto questo parallelo con la figura di Tupiriglio di Alberto Manzi, che è un autore, lo conosciamo, maestro e illustre, di cui ricorre il centenario. Ma tutto questo, Anna Maria, sarà possibile vederlo e leggerlo, vero? Allora sì, innanzitutto è stato tutto registrato e verrà messo, in parte è già stato inserito, nel parte YouTube lo spazio riservato a Illustramente, perché il convegno, la tavola rotonda, si sono inseriti nell'ambito del 12° Festival di Illustramente, Festival dell'Illustrazione della Letteratura per l'Infanzia, che si è svolto parte a Palermo nelle giornate del 20, 21 e 22 e parte appunto a Roma nelle giornate del 23 e del 24. E quindi, inoltre, poi verranno anche pubblicati gli atti del convegno. Ecco, quindi invitiamo tutti curiosi, interstudiosi o comunque coloro che non si sono potuti recare a Roma a scoprire invece questi approfondimenti di grande qualità e notevoli che sono stati appunto detti sia nella tavola rotonda che nelle due giornate a Roma. Ed è possibile, quindi ripetiamo, sul canale YouTube di Illustramente o nel 2025 negli atti del convegno. Bene, allora io ti saluterei, ti ringrazierei, ma certamente mi verrebbe voglia di raccontare una storia di Giufà o perlomeno chiederti: ma qual è la tua storia preferita di Giufà? Diciamo la più sintetica e la più indicativa è quella di Giufà e la porta. In due parole, la madre di Giufà esce di casa e raccomanda al figlio: quando vieni, tirati la porta. E Giufà scardina la porta, se la mette sulle spalle e va dalla madre. E la storia continua con tante vicende sempre su questa idea del prendere le cose alla lettera e ovviamente le vicende poi mostreranno la complessità di questo personaggio. Grazie Anna Maria, alla prossima volta per un approfondimento. Buona serata. Grazie. Ho preso una chitarra e sono andato sulla strada, seduto giù in un angolo all'ombra di un balcone. E suono per la gente che mi ascolta e che si svaga, e son diventato subito il re della città. Poi arriva un tizio che suona il basso tuba, e si è seduto subito a suonare insieme a me. E adesso siamo in due a suonare sulla strada, e siamo diventati subito il re della città. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiostarfugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.